24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, eccoci qua con 24 mattino, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, è il momento di parlare un po' di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua, buon lunedì. Come sei pimpante stamattina, no, ti sei alzato di ottimo te umore. Che sbuffa sempre. Ma non sbuffo mai, non sbuffo mai. Era qua che sbuffava, guardava l'orario dicendo sbuffava. Ma sì, stamattina partiamo prima del solito. Partiamo presto. Beh, significa che non ci sono tanti disagi sulla strada, quindi gli amici del traffico hanno dovuto raccontare poche cose, esatto. Meglio così. E allora, oggi come annunciato parliamo, insomma, visto che è tempo di vacanze, sì. Gli italiani si stanno tutti preparando per le vacanze e c'è il solito dilemma, insomma, no? Soprattutto quando si va magari all'estero, cosa si porta dal punto di vista del denaro? Del denaro, quanti? Dietro? Quanto contante, soprattutto tu parti leggero o parti con molto contante in genere? No, è che io le stento tutte per sapere le carte da gioco, carte. Se ce l'eravamo già preparate ed è venuta a Manila. Le carte, no. Allora, adesso a parte gli scherzi, gli italiani tradizionalmente preferiscono utilizzare contanti, ma questo non avviene in vacanza, questo avviene generalmente ovunque per pagare ogni tipo di acquisto. Peraltro questo è un tema che abbiamo già affrontato in passato proprio qui in questa sede, a soldi e dintorni, ma magari in vacanza è meglio utilizzare altri sistemi di pagamento, è meglio preferibile appunto utilizzare la carta di pagamento, il bancomat o la carta di credito, banalmente perché ci si può difendere meglio in caso di furto. Ma tutti gli accorgimenti che è necessario utilizzare quando si va in vacanza in relazione al mezzo di pagamento, questa mattina ve le diamo con Alessandro Zollo, responsabile del settore sistemi e servizi di pagamento dell'ABI, l'associazione delle banche italiane. Dottor Zollo, buongiorno, torniamo a disturbarla per soldi e dintorni. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, tra l'altro voi proprio ogni anno, come dicevo prima, elaborate una sorta di vademecum sul corretto utilizzo delle carte in vacanza. Lo scorso anno questa lista di raccomandazioni era stata diffusa in agosto e avevate indicato come 250 milioni di prelievi possibili che gli italiani avrebbero fatto nell'estate scorsa, proprio ovviamente monitorando in particolar modo il periodo della vacanza, per una montare di circa 42 miliardi di euro, mentre avevate previsto pagamenti con carte bancomat per circa 300 milioni per un ammontare di quasi 20 miliardi di euro. Queste erano previsioni dell'anno scorso, quest'anno, dottor Zollo, le avete elaborate? Sì. Quest'anno più o meno, diciamo, le stime sono le stesse, nel senso c'è un pochino di aumento del totale, dell'ammontare, ma in termini percentuali siamo sempre su un terzo della spesa totale. È un periodo in cui evidentemente gli italiani utilizzano per ovvi motivi maggiormente le carte. In assoluto le utilizziamo poco, ma in estate, diciamo, incrementiamo l'utilizzo. Ecco, è consigliabile in termini generali quando ci si sposta, sia che ci si sposti sul territorio, come dire, vicino a casa nostra, quindi sia che ci si sposti in Italia, ma soprattutto se ci si sposta all'estero, è consigliabile non avere troppo denaro contante con sé per evitare furti sotto l'ombrellone o nei luoghi affollati di vacanza e divertimento. Diamo allora queste raccomandazioni, dottor Zollo. Prima di tutto, che cosa dobbiamo controllare prima di partire, a patto appunto che decidiamo di non portare con noi troppo contante, ma relativamente alle carte che abbiamo, sia il bancomat che la carta di credito, cosa dobbiamo controllare prima di partire? Beh, la prima cosa è verificare se abbiamo ben memorizzato il PIN, che è quel numero, quel codice che ci consente o di prelevare contante con la carta bancomat o di pagare con carte bancomat e carte di credito. Bisogna verificare la scadenza della carta di credito o del bancomat. Più generalmente la carta di credito ha una scadenza, diciamo, che va verificata sulla carta stessa. Va verificato il plafond e quindi va verificato effettivamente quanto possibilità di utilizzo c'è all'interno della propria carta. Ogni carta, le carte di credito hanno uno specifico plafond. Sì, ecco, dottor Zollo, un attimo che mi stavano dando delle indicazioni dalla regia, ci eravamo anche un po' distratti, io e Alessandro. Quando vado all'estero, posso utilizzare ovunque il mio bancomat? Allora, dipende. Il bancomat quasi sempre ha una a bordo della propria carta, quindi sempre sulla stessa plastica, un altro circuito internazionale, sia esso di credito o di debito. Va verificato qual è questo circuito, e questo circuito può essere utilizzato all'estero contestualmente, diciamo con lo stesso PIN a volte del bancomat, o addirittura con un altro PIN. Questo dipende dalla propria carta. La carta ha il bancomat e magari vicino c'ha Mastercard piuttosto che Visa, piuttosto che Maestro, un altro circuito internazionale che consente ed estende l'utilizzo dello stesso bancomat anche all'estero. Ecco, questo dunque è, come dire, tutta l'indicazione utile per quello che riguarda l'utilizzo del bancomat. Andiamo invece alla carta di credito, poi faremo anche un punto invece sulle carte prepagate, che magari per i giovani sono gli strumenti maggiormente, certo, utilizzati, se, come dire, il genitore preferisce non affidare una carta un po' più impegnativa ad un ragazzo mandandolo all'estero. Per quello che riguarda invece la carta di credito, anche queste sono forse addirittura preferibili all'utilizzo del bancomat, ma in genere insomma si può tranquillamente scegliere. Per quello che riguarda la carta, che cosa dobbiamo controllare prima di partire? Dottor Zollo, rifacciamo anche qui le raccomandazioni, perché magari tante volte non controlliamo il plafond che abbiamo a disposizione, immaginiamo di doverla utilizzare moltissimo, ma ci accorgiamo tardi che magari abbiamo una somma a disposizione che non c'è sufficiente, soprattutto, certo, se siamo fuori per lunghi periodi. Esatto, come dicevo, le carte di credito sono generalmente accettate all'estero e hanno sicuramente un plafond superiore alle carte cosiddette di debito. La carta di debito principale è il bancomat. Va verificato appunto anche qui la scadenza della carta, va verificato il plafond di spesa della propria tessera, e così si evita di mettere in valigia una carta che poi è inutilizzabile perché è scaduta o perché magari nelle settimane precedenti alla partenza abbiamo esaurito la somma. La data di scadenza, dicevo, è scritta sulla carta, mentre le informazioni del plafond sono scritte sul contratto oppure possono essere richieste alla propria banca. Quindi queste due semplici accortezze, accoppiate al fatto di memorizzare il proprio PIN per i prelievi e per i pagamenti, sono le regole da rispettare per poi non avere imprevisti all'estero. Certo, un imprevisto che però si può verificare, ovviamente speriamo di no, per tutti coloro che si accingono a partire entro breve, è quello del furto, dottor Zollo, sia del bancomat che della carta di credito, se ci dovessero rubare il portamonete. Forse per questo magari è meglio avere una piccola somma in contanti, magari depositati in albergo o in un luogo separato rispetto al portamonete. Questa è una raccomandazione di buon senso. Ma se ci rubano il bancomat e la carta all'estero, che cosa facciamo? Allora, per quanto riguarda il bancomat, in Italia c'è un numero verde che blocca la carta e non ci sono problemi. All'estero bisogna portarsi con sé il numero che la propria banca ci ha dato, che può essere anche a volte rilevabile dal sito internet, e con quel numero si blocca la carta. Gli altri consigli sono quelli di memorizzare il PIN e magari di non memorizzarlo insieme alla carta, o addirittura sopra la carta, come a volte è avvenuto, di verificare, magari attivando, molte banche ora lo fanno, quel servizio che avvisa con un SMS quando è stata utilizzata la spesa, e quindi in modo da poter controllare questo. Si firma la carta di credito dietro, perché dà ancora più certezza alla transazione. Ma quello che voglio dire, che è importante, è che i contanti, se si perdono, è difficile, no, che qualcuno ci li ridia, mentre la carta, nel momento in cui c'è stato un furto o smarrimento, può essere e deve essere bloccata, e i soldi da quel momento non subiscono danni, nel senso che la banca rimborsa il cliente. Quindi usare queste piccole, ormai regole, ci consente di non avere sorprese. Se siamo proprio degli affezionati irriducibili del contante, dottor Zollo, un surrogato abbastanza simile a questo è la carta prepagata, la possiamo definire in questo modo? Beh sì, in effetti la carta prepagata assomigliano abbastanza al contante, nel senso che sono quelle, per esempio, che ci servono di più per piccoli acquisti, e sono normalmente delle plastiche che poi vengono gettate alla fine dell'utilizzo, quindi usa e getta, sono ricaricabili e consentono, per esempio, se si vuole dare una piccola cifra o una media cifra al proprio figlio, a un giovane che va all'estero e vuole utilizzarlo, senza avere appunto con sé troppi contanti, di poterlo utilizzare sui circuiti internazionali con le stesse regole delle altre carte, ma con un numero di contanti, di una cifra, un ammontare limitato, così da poter da una parte tenere sotto controllo la spesa, esatto, ma dall'altra appunto non circoscrivere il problema dell'utilizzo della carta. Del infatti, no, tra l'altro hanno un tetto di spesa che può arrivare anche a 2.000-2.500 euro, pertanto un budget per fare una vacanza più che dignitosa. Dottor Zollo, la ringrazio per essere stato con noi, naturalmente buone vacanze. Grazie anche a voi, buongiorno. A presto, Alessandro Zollo dell'ABI. Alessandro. Eccoci qua, allora. Allora, oggi con il Sole 24 Ore esce uno speciale, la riforma del processo civile. Noi oggi parliamo del giudice di pace con la collaborazione dei colleghi delle Sole 24 Ore, quindi tutto quello che cambia nell'ambito anche di questa fetta, diciamo, della giustizia. Sono le 8:32 minuti, eccoci ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Nuove proteste in Iran, nonostante i divieti dell'autorità. Il ministro dell'intelligence torna a negare che nel voto alle presidenziali del 12 giugno vi siano stati brogli. Ma intanto in 22 distretti elettorali di Teheran e in altre province del paese è cominciato un nuovo spoglio su un campione casuale del 10% delle schede elettorali. In Honduras invece c'è stato un colpo di Stato. Ieri il presidente Zelaya denuncia dalla Costa Rica, dove si trova, di essere stato rapito dai militari. Oggi se ne parla in una riunione speciale delle Nazioni Unite. In Italia il ministro all'economia Tremonti dice il governo è fortissimo, arriverà a fine legislatura. Un eventuale governo tecnico durerebbe quanto uno yogurt. E oggi è anche il terzo e ultimo scritto per i quasi 500.000 studenti impegnati con la maturità, appuntamento che slitta domani solo per Roma, dove oggi si festeggia San Pietro e Paolo. Stavolta i candidati si cimenteranno con il quizzone, una serie di test predisposti dalle commissioni esaminatrici. Infine lo sport, va al Brasile la Confederations Cup, ma quanta fatica per i verdeoro che hanno battuto 3-2 gli Stati Uniti in finale dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 2-0. Poi la rimonta e il gol vittoria nel finale. Tutto questo alle 8:33 minuti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come detto, dunque, parliamo della corruzione, un termine che in Italia si vede spesso sui giornali, senza fare grande effetto, a dire la verità. Una denuncia a me ha fatto rizzare i capelli sostanzialmente. Un paio di giorni fa, una denuncia molto forte sui giornali, si è guadagnata un'apertura dei giornali, qualche articolo, poco più, e poi finita nel dimenticatoio. Insomma, siamo un paese un po' fatto così. Allora, la denuncia l'ha fatta il procuratore generale della Corte dei Conti, Furio Pasqualucci, che saluto. Procuratore, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, la denuncia è stata fatta in una relazione molto composita, molto lunga, a commento del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2008. La cifra che mi ha fatto sobbalzare, che ho letto poi sui giornali: la corruzione ci costa 60 miliardi di euro l'anno. È una cifra bella tosta, procuratore. Lei vorrà sapere come si è arrivati a fissare una cifra di questo genere? Intanto sì. Diciamo, le valutazioni sono sempre fatte sulla base di proiezioni, di studi di tipo generico. Comunque il dato non è della Corte dei Conti, è del SAET, cioè sarebbe il Servizio Anticorruzione e Trasparenza, istituito a seguito della soppressione dell'Alto Commissariato contro la Corruzione, servizio istituito presso il Ministero della Funzione Pubblica, e la valutazione quindi viene fatta da loro. Quindi 60 miliardi di euro. Procuratore, spogliandosi un attimo del suo ruolo istituzionale, anche lei fa specie il fatto che ci siano un paio di titoli il giorno dopo e poi non se ne parla praticamente più? Ma diciamo, sia la notizia sia la cifra sono ricorrenti, nel senso, ogni volta che esce una di queste relazioni, o ripeto del SAET oppure della Corte dei Conti, o anche parliamo delle varie relazioni dei procuratori generali, della magistratura ordinaria nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, questi dati appaiono sulla stampa, vengono recepiti dall'opinione pubblica, ripeto, in maniera ricorrente, e poi per lo più danno luogo, diciamo, a convegni. Io personalmente vengo spessissimo invitato a convegni in cui si parla di questi problemi della corruzione. E se ne discute, diciamo, Il fenomeno resta, ecco. Ecco, il fenomeno resta. No, perché qualcuno ha detto, ah, non mi stupisco, addirittura sui giornali qualcuno ha tirato fuori, è tornata la corruzione. In realtà no. non è mai sparita, insomma, esatto, si parlava di mani pulite. Non si può proprio, possiamo dire si è tornata a parlare della corruzione, ecco. Ma che la corruzione sia un fenomeno endemico, anche se a mio avviso ha preso delle caratteristiche un po' diverse rispetto al periodo di Mani Pulite, nel senso che in quel periodo c'era più una corruzione che era strutturata diciamo all'insegna delle sovvenzioni ai partiti, e adesso diciamo fenomeni di questo genere appaiono invece molto più ridotti, e quello che si vede invece, a parte quelle che sono come dire iniziative individuali, è l'intervento della malavita nel tessuto amministrativo, nel tessuto economico, e quindi diciamo la corruzione ha preso più che altro un aspetto di questo genere. Naturalmente diciamo non è un'indagine sociologica, è più che altro quello che emerge sulla base dei casi che vengono sottoposti all'attenzione della Corte. Sicuramente sono cambiati anche i tempi. Ieri mi ha fatto un po' specie leggere sui giornali: Piacenza avrebbe intascato denaro per avvisare tempestivamente amministratori di ditte che presto sarebbero state sottoposte a controlli sulla sicurezza del lavoro. È stato arrestato in flagranza di reato il direttore provinciale dell'ispettorato del lavoro di Piacenza e Mantova. Flagranza di reato perché riceveva, almeno questo da immagini, una busta, la famosa busta con 1.500 euro. Non c'è più in realtà molto, o c'è ancora, procuratore, questa cosa della mazzetta? Adesso sono cambiati anche i modi di corrompere? Diciamo, se esistono mezzi più sofisticati, il che non esclude appunto che, ripeto, a livello di bassa manovalanza direi io esista ancora il fenomeno della mazzetta. Naturalmente per quanto riguarda la corruzione c'è prima di tutto un fenomeno di provvista delle risorse, perché molto spesso questa corruzione è anche fatta da parte di soggetti economici che operano sul mercato, che hanno un bilancio e che quindi devono reperire questi fondi, e questo può avvenire attraverso, come si dice nella relazione che abbiamo fatto, attraverso sovrafatturazioni oppure addirittura l'emissione di fatture false e che evidenziano dei costi che in effetti non ci sono stati. Esistono delle società, cosiddette società cartiere, che proprio producono fatture di questo genere, sì, che consentono di accumulare delle risorse che poi vengono utilizzate, come si dice, per ungere le ruote. Sì, producono le fatture inesistenti. Le prestazioni possono essere di vario tipo, possono essere nascoste sotto forma di consulenze, sotto forma di rimborsi spese, oppure appunto diciamo in maniera più brutalmente attraverso queste forme di dazioni. Sì, le società cartiere insomma producono fatture false sostanzialmente, alle quali poi no, si può creare tutto. Leggevo sempre dalla relazione, allora, le 5 regioni col maggior numero di denunce per corruzione: la prima è la Sicilia al 13%, Campania all'11%, la Puglia, Lombardia, Calabria, quindi in prevalenza il sud. Il sud dobbiamo capire che cosa. Si ecco. Vede che il fenomeno si va espandendo. Diciamo questa è una rilevazione fatta in maniera un po', come dire, un po' grezza, nel senso che è sulla base delle denunce che vengono effettuate, quindi non sempre questo dimostra l'entità del fenomeno. Ci può darsi, possono essere zone in cui il controllo sul territorio da parte degli organi dello Stato è maggiore e zone invece dove questo controllo non viene effettuato nella maniera adeguata. Comunque, diciamo, con riferimento al numero delle denunce si vede che il fenomeno sta salendo verso nord, anche se questa strana classifica cambia un po' nel tempo. Per esempio il rapporto del commissariato sulla corruzione, quello di 2 anni fa, vedeva al terzo posto la Lombardia, vedo adesso che invece la Lombardia viene messa al quinto posto. Insomma, sì, diciamo, in ogni modo è chiaro che il fenomeno si va diffondendo e è più accentuato al sud, ma comunque insomma anche grosse regioni del centro-nord, parliamo della Lombardia, parliamo del Lazio, ne sono coinvolte. E però, procuratore, noi abbiamo detto 60 miliardi di euro l'anno, che io ripeto ossessivamente questa cifra perché forse entrerà in testa a qualcuno. 60 miliardi, ragazzi, cosa si può fare con 60 miliardi? Poi si parla della crisi economica. Sono 2 o 3 finanziarie. Appunto. Leggo però che le sentenze di condanna sono pochissime, a mio modo di vedere, rispetto al 60 miliardi, o no, o mi sbaglio? Ma diciamo, come, per quanto riguarda, intanto lei parla di sentenze di condanna della Corte dei Conti, sì, sì. Perché diciamo il compito principale di combattere la corruzione, i reati contro la pubblica amministrazione compete alla magistratura penale. Il nostro è un tipo, diciamo, di un'attività che si pone un po' con carattere ausiliario rispetto a quello che è l'attività principale del giudice penale e che colpisce tutte le volte che emerge un danno patrimoniale recato alle casse dello Stato. Certo, sono anch'io convinto che si punisce un po', si colpisce la punta dell'iceberg e che buona parte di questo fenomeno è sotto traccia e non viene evidenziato, non viene individuato. D'altra parte abbiamo anche qualche problema di tipo operativo, perché molte volte succede che quando incarichiamo di indagini le forze di polizia, specialmente le indagini vengono svolte per conto nostro dalla Guardia di Finanza, se questi nel corso delle indagini vengono individuate ipotesi di reato, la Guardia di Finanza non risponde più a noi, bensì al magistrato penale, e soltanto quando il magistrato penale avrà disposto il rinvio a giudizio ne viene data notizia alla Corte dei Conti. Perfetto. Quindi diciamo è un circuito un po' più ampio, che molte volte può rappresentare anche una forma di intralcio nella nostra attività. Tra l'altro, procuratore, visto che lei abbiamo dato una delle cifre, l'altra cifra che lei ha denunciato e che voglio anche questa mettere in rilievo, seppure il tempo un po' è tiranno, insomma mancano un paio di minuti, è quella dell'evasione. L'altro Vero. Grande cancro italiano è l'evasione, insomma è una cifra pari al 18% del PIL, tradotta in termini in soldoni vuol dire un gettito mancato per gli evasori fiscali di 100 miliardi, quindi non 60, siamo a 100 miliardi di euro. Esatto, queste Accidente. Sono cifre che vengono direttamente dal Ministero sì. dell'Economia, certo. Quindi diciamo sono ben note al governo. E, devo dire che finora il fenomeno appare soltanto scalfito, non ci sono grossi risultati. Nella relazione ho anche evidenziato quelle che sono le valutazioni delle sezioni riunite della Corte dei Conti in ordine alle modalità con cui viene affrontato questo fenomeno. E esiste quello che a mio avviso è un vero e proprio tesoro nascosto, che se si riuscisse ad individuare in misura fisiologica, perché diciamo una certa evasione è noto che c'è dappertutto anche a livello europeo, ma certamente non nella misura in cui si verifica in Italia. Sono 100 se si riuscisse a riportare questo fenomeno nei termini fisiologici, io penso che molti dei problemi economici di fronte ai quali ci troviamo potrebbero trovare adeguata soluzione. No, insomma, se si recuperassero, non dico 160 miliardi di euro, ma una buona parte, ecco, lei capisce come la nostra economia sia colpita da questi che sono veri e propri cancri che rischiano di soffocarla. No, certo. Procuratore, io nel ringraziarla, che dobbiamo fare? Ci aggiorniamo alla prossima relazione che farà scalpore per 24 ore, poi la inviteranno ai convegni e poi... Senta, io sono abbastanza vicino ai limiti di età, quindi non è detto che ci sarà una prossima mia relazione. Va bene. Il mio successore che cosa ne penserà. Va bene, io intanto la ringrazio molto, anche perché oggi a Roma è festa, insomma si è stato qui per noi nonostante l'orario, ovviamente in un giorno di festa patronale. La ringrazio, Furio Pasqualucci, procuratore generale della Corte dei Conti. Insomma, ho voluto finire così un po' per ridere, un po' con una risata, perché le cifre sono impressionanti, ma d'altronde, ripeto, si parla d'altro sui giornali, questo ha preso un paio di titoli e poi basta, però 60 miliardi in corruzione, e tra l'altro leggevo nelle classifiche, stiamo messi in peggio nelle classifiche di Transparency International sulla corruzione. Siamo 41esimi, meno corrotti di noi sono il Botswana, stimabilissimo paese africano, e Macao, stimabilissimo paese in Asia. Bene, Sono le 8:47 minuti, eccoci qua. Allora, Europa 7 è una TV, come detto, una TV che non c'è, questo c'è scritto nel sito di Europa 7, forse ve lo ricorderete, è una TV che dal 99 iniziò un lungo contenzioso, un contenzioso durato anni perché aveva diritto ad aver assegnate le frequenze, ma le frequenze erano occupate da Rete 4, ci fu una lunga vertenza, che si è anche inclusa con un risarcimento. Un risarcimento che credo il proprietario, imprenditore televisivo di Europa 7 ha contestato almeno nelle cifre. Francesco Di Stefano, buongiorno. Buongiorno. Lei è il patron di Europa 7, imprenditore. Con noi c'è anche Marco Mele del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Grande esperto insomma di sistemi radiotelevisivi, di tutto quello che concerne questo mondo. Dottor Di Stefano, lei ha sempre contestato, credo, quant'era? €1 milione è stato il risarcimento poi? Dopo 10 anni di battaglia legale praticamente. Risarcimento che credo lei abbia definito di recente in un'intervista, insomma, a febbraio, una sconcezza, almeno nei termini, insomma, perché dice non ci pago neanche gli avvocati. Però il 1° luglio di Stefano è una data che tutti aspettano, nel senso che dal 1° luglio Europa 7 dovrebbe trasmettere. Europa 7 trasmetterà dal 1° luglio? Dunque dal 1° luglio dovrebbe essere libero questo canale 8 in tutta Italia, canale che su cui trasmetteva Rai 1, quindi non c'entra niente il discorso della Rete 4 eccedente. Praticamente noi dal 99 abbiamo diritto a 3 frequenze, 3 canali, perché è l'unico modo per fare una rete nazionale in Italia, in analogico, ci vogliono almeno 3 canali. Rai 1 in VHF, quindi la banda dove ha ricanalizzato questo canale, per trasmettere Rai 1 utilizza 10 canali, 10 frequenze. Quindi qui si pretende che noi con una sola frequenza riusciamo a fare una rete nazionale. Questa cosa è impossibile tecnicamente. Loro stessi nella ricanalizzazione, lei stessa dice, sono interessati 14 milioni di utenti nella ricanalizzazione del canale E, F e G, quindi questi 3 canali della RAI servono 14 milioni di utenti. Noi con un solo canale abbiamo fatto una verifica, dovremmo non superare i 10-12 milioni di utenti. Questo per tanti motivi: uno, perché in analogico un solo canale appunto può essere acceso su un solo monte, su un solo ripetitore, perché se ne accende un altro vicino si interferisce. Due, perché la RAI, utilizzando 10 frequenze, di cui 3 in prima banda, fa sì che un certo numero di milioni di utenti, quelli in prima banda, noi non potremo mai raggiungere. Ma questo che vuol dire, Di Stefano? Che mi vuole dire? Cioè che avete a disposizione frequenze che non raggiungono le persone che a voi stanno bene? Troppe poche persone? No, non abbiamo le frequenze che ci spettavano. Noi avevamo diritto, appunto, quando nel 99 abbiamo vinto la concessione, a 3 canali. Ah, perfetto. Che la concessione che ci fu data disse potete trasmettere sul canale A, B e C. Peccato che il canale A, B e C non esistano. Dovevano metterci canale 21, 35, 47, ecco, per renderli operativi. Allora, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha stabilito che il periodo transitorio per Rete 4 è finito, per cui Rete 4 è illegittima almeno dal 97 e quindi andava spenta, e Europa 7 doveva cominciare a trasmettere, era facile il ragionamento: Rete 4 spegne, le frequenze vanno ad Europa 7 e quindi ha la capacità di fare una rete su tutto il territorio. Questo però non è successo. Questo non è ancora successo perché non è stata ancora rispettata, eseguita la sentenza della Corte di Giustizia. Però le chiedo, mi risponda con un sì o un no, perché poi c'è Marco Mele, magari le farà una domanda. Insomma, il 1° luglio, col fatto che lei dice non ci hanno dato quello che mi spettano, quello che ci spetta, insomma, il 1° luglio voi che fate? Non trasmettete oppure no? Ma noi non trasmettiamo perché non possiamo fare una rete locale, una rete che non trasmette su Bologna, su Milano, su Torino, su Napoli, su Catania, insomma è abbastanza ridicolo. Se ci mettessimo a fare una rete in questo momento falliremmo in 6 mesi con una rete del genere. Marco, hai sentito, questa insomma già è una notizia, nel senso Europa 7 non parte, diciamo, almeno il 1° luglio. È una vicenda davvero infinita, gli italiani sono un po' spaesati secondo te da questo punto di vista, oppure come se ne uscirà? Ma l'Italia italiani non sono molto spesati perché della vicenda non sono mai stati informati correttamente, se non i lavori. Come è noto, la televisione, i principali giornali non parlano quasi mai del sistema televisivo, cioè parlano solo in genere dei contenuti della televisione, dei programmi, si parla molto poco di sistema televisivo, di pluralismo, di concorrenza, per cui se gli italiani, c'è comunque una minoranza di persone anche consistente, e si vede anche da internet, dai siti internet, adesso senza nominare quali, eccetera, che invece sanno bene qual è la vicenda di Europa 7, sanno, è stata già sintetizzata da Di Stefano anche molto bene nel poco tempo che ha avuto, che cosa sia successo. Io direi che la cosa anche importante è far capire anche agli ascoltatori come il fatto che nuovi soggetti non riescano ad entrare nel settore televisivo toglie qualità, non solo c'è meno concorrenza e quindi però, questo bisognerebbe dirlo, non si è mai fatto questo collegamento, il fatto che ci sia meno concorrenza, meno soggetti in campo, in realtà toglie qualità all'insieme dell'offerta televisiva, perché se solo uno, due o tre soggetti sono in campo, perché questo poi sta succedendo col digitale, è evidente che questi soggetti non fanno evidentemente altro che ottimizzare le risorse, cioè utilizzare il magazzino, canali fatti col magazzino, si guardi, anche fatti magari bene, ma sì, poca sperimentazione, poca apertura alle nuove cose. Insomma. Assolutamente non sperimentano nuove cose e non cercano nuovi talenti, utilizzano quelli che hanno però già sottotratto. Ti chiedo, Di Stefano, secondo te fa bene a non partire di fatto il 1 luglio? Nei fatti mi sembra non possa partire, cioè nel senso se devi fare una rete nazionale, se un giorno devi fare una rete nazionale comunque, perché poi è chiaro che se la fai e raggiungi, cioè hai dei costi, un palinsesto che poi non agli utenti, agli inserzionisti pubblicitari, dici io non ti posso dare solo 8-10 milioni su 50 milioni di italiani, non vedo quali inserzionisti pubblicitari possono investire su una rete del genere. Da questo punto di vista però, Di Stefano, lei non rischia, se, a suo parere, di apparire come quello che dice ma come? Dopo che il contenzioso l'ha vinto e gli è stato dato, anche se lei dice, pochissimi soldi, dopo che gli hanno detto dal 1 luglio si parte, in Rai già ci sono le annunciatrici che dicono attenzione utenti, dovete ricanalizzare, dovete cambiare la Rai perché bisognerà cambiare tutto, e lei non parte, rischia insomma di apparire come quello che non si contenta mai, non lo so. Ma io quello che rischio di apparire, me ne sono fatto una ragione, perché in Italia su questo settore si appare per quello che la propaganda di Mediaset decide che si appare, quindi me ne sono dovuto fare una ragione. Io devo fare un discorso industriale, imprenditoriale. Dopo 10 anni, bene o male, siamo rimasti ancora in piedi. Se partiamo a queste condizioni è sicuro che falliamo e quindi facciamo finalmente felici e contenti gli amici di Mediaset. Dice Marco Mele, che succederà invece per gli utenti? Perché io l'ho vista stamattina, mi sono svegliato alle 6, è apparsa una bella annunciatrice della Rai a dire attenzione perché tra qualche giorno potrà succedere che dovrete ricanalizzare tutti, 14 milioni di utenti devono ricanalizzare tutto, cioè che vuol dire? Non ho capito niente. Ho una premessa, perché sennò, la Rai, questa ricanalizzazione, la riganalizzazione della banatessa va fatta comunque, non si fa per Europa 7, no, certo. È una riganalizzazione che è prevista dalla conferenza di Ginevra del 2006 ed è prevista poi anche dal piano di ripartizione delle frequenze che è stato di recente, cioè è una cosa comunque obbligata, va fatta entro, diciamo, il passaggio al digitale finale, entro il 2012 va comunque fatta. Quindi questo è importante. Questa riganalizzazione è fatta comunque perché l'Italia in questa banda di frequenza, la banda 3 VHF, non è allineata a tutti gli altri paesi europei. No, ma su questo è chiarissimo. Quindi diciamo che però abbiamo avuto già alcune notizie, il 1 luglio succederà questo. È importante. Io vi ringrazio, devo fermarmi qui. Ringrazio sia Francesco Di Stefano, patron di Europa 7, e Marco Mele del Sole 24 Ore. Staremo a vedere. Intanto, allora, tra poco cedo la linea Oscar Giannino, che inizia oggi con noi, 9 in punto la versione di Oscar, ovviamente in bocca al lupo. Ringraziamenti in redazione Alessandro Marco Tulli, Laura Marchesi, oggi ringrazio anche Gaia Romani che è stata qui con noi in redazione, e Carmelo Lauricella in regia. Ci fermiamo qui e ci ritroviamo domattina.